Ci passavamo nastri arancioni ed il liceo era pieno di tue canzoni, cassette come rivoluzioni da ripassare dopo le lezioni. Dalle tue labbra bocche di rosa in te si trovava sempre qualcosa che anche la luna ballava nei tavoli quando cantavi dell'uomo i suoi limiti. Preti, puttane, giudici e maschere, nella tua strada processioni di nuvole, controcorrente come un salmone nel fiume, mentre moriva Michel in prigione. Poi la Sardegna come scelta di vita che tu hai amato più di una rosa. Nessuno poté rapire il tuo cuore ai tuoi assassini. Tu regalasti un fiore che dal letame tu ci insegnasti. Nascono fiori, petali e arbusti, a tutti gli incesti hai dato voce. Tu agli impiccati hai dato luce, ma la più bella canzone che hai scritto è la tua vita. La tua musica è un porto da dove partono i sogni dell'uomo. Oltre ogni sacro, oltre il profano, tu della storia hai cantato le budella, hai dato vita ai suicidi a Marinella. Tu che poeta, in fondo eri un marinaio che pescava negli occhi di ogni uomo il più bello. Nella tua Genova, in via del campo, si sente ancora il respiro del tuo vento. Tu uomo hai scritto e dato alla storia il tuo sguardo poeta, la tua memoria.